Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. In Sicilia, 3 impianti fotovoltaici ammessi a finanziamenti pubblici per oltre 10 milioni di euro, ma mai entrati in funzione. Sul fotovoltaico già ci sono interessi mafiosi, già la mafia ha puntato anche su questo grande affare. E ora tutti a caccia di sole. Dopo aver inseguito ogni scirocco o libeccio, ora sono le colline di vetro, la nuova frontiera di investimento. Calamita però tanto del calore quanto anche degli interessi delle mafie, richiamate dal luccichio dei finanziamenti pubblici. Ma dietro il business dei pannelli solari c'è anche il sole guasto delle truffe di ogni genere, un sole nero che sporca le buone intenzioni delle energie pulite. Dalla Sicilia alla Puglia, passando per Calabria e Lazio, indagini di vario tipo sono in corso, così come in modo maggiore è già stato per l'eolico. Ma sul fronte infiltrazioni c'è soprattutto un movimento sotterraneo che preoccupa gli investigatori. Le cosche siciliane stanno comprando i terreni per futuri impianti fotovoltaici con concreti rischi ambientali. Terreni davanti al mare o alle spalle di parchi archeologici, terreni che potrebbero essere abbandonati una volta che è ottenuto l'investimento e allestito l'impianto, non servano più. E se nessuno si curasse poi della rimozione delle colline di vetro? Per questo l'attenzione è per chi compra e per le garanzie che mette sul piatto, perché il rischio, avverte Maurizio De Lucia della Procura Nazionale Antimafia, è un nuovo sacco. Da sempre le organizzazioni criminali hanno tentato di controllare il territorio, lo hanno fatto con vari fini, ma a questo punto uno di questi fini è proprio la gestione diretta dei terreni su cui si devono applicare i pannelli fotovoltaici. Se pensiamo che qualche cosa di simile a quella che fu la gestione dei terreni ai tempi, ad esempio, del sacco edilizio di Palermo. Ci sono inchieste aperte che tratteggiano e denunciano questo problema? Da diversi spunti investigativi emerge proprio questo, un interesse al nuovo, la considerazione per la quale questa è un'attività che peraltro lo Stato giustamente incentiva in maniera significativa, ma naturalmente comporta dei rischi. Il primo di questi rischi è l'infiltrazione mafiosa in senso generale in questo tipo di attività, come in altre rispetto alle quali abbiamo assistito anche in passato a indagini che sono tuttora in corso ma per le quali vi sono state discovere significative, penso ad esempio alla questione delle paleoliche nel Trapanese. Tra l'altro richiede l'infiltrazione in questo tipo di settori anche una notevole capacità tecnica e una capacità tecnico-amministrativa. Diciamo quindi che le organizzazioni criminali che hanno maggiori addentellati nella macchina pubblica sono in qualche modo favorite nel potere ottenere agevolazioni, ad esempio nelle procedure non sempre corrette di attribuzione dei finanziamenti relativi a queste pose in opera. Quindi il punto debole, mi sembra di capire, sia laddove passano le autorizzazioni per l'impianto di questi pannelli fotovoltaici e nell'acquisto dei terreni dove questi pannelli devono essere poi installati. Esattamente, sono due fenomeni diversi ma che concorrono. Potere, come dire, ungere le ruote della catena burocratica che promuove le agevolazioni è una cosa che sta a cuore alle organizzazioni criminali. Controllare i terreni sui quali questo materiale deve essere posato ancora di più. Già nell'eolico ci sono state delle inchieste che hanno portato appunto a dimostrare anche i grandi interessi, ma poi c'è stato un proliferare anche di indagini in varie regioni, in varie province sull'eolico. Lei pensa che sarà solo una questione di tempo e anche gli investimenti sul fotovoltaico seguiranno la stessa strada? Il dato interessante per le organizzazioni criminali anche qui è non tanto lo sviluppo della tecnologia quanto l'acquisizione dei terreni, e in più nel caso dell'eolico le pale devono essere su una torre in cemento, e quindi torniamo a una cosa tradizionale delle mafie, cioè il controllo del ciclo del cemento. Naturalmente una volta che l'attenzione degli inquirenti è particolarmente focalizzata su questo settore, le mafie si spostano, perché rimane l'interesse ai terreni e si rinuncerà, vuol dire, per questo periodo all'interesse al ciclo del cemento. Da questo punto di vista è molto interessante ad esempio poter fare un controllo su quali sono le società che posizionano i pannelli fotovoltaici e assicurarsi ad esempio che questi siano in grado di presentare le idonee garanzie bancarie, che non sempre ci sono. Stilare una sorta di white list delle società? In qualche misura sì. sistema è di lavorare con Sireta con una serie di controlli preventivi sulla qualità degli operatori, successiva sulla posa in opera e il funzionamento dei meccanismi e naturalmente cercando soprattutto di conoscere chi sono i soggetti che si avvantaggiano direttamente di questi meccanismi. In buona sostanza una catena burocratica breve, snella e trasparente è il sistema migliore per evitare poi che sia come sempre la magistratura a svolgere un ruolo di supplenza e di intervento quando però è già troppo tardi. E se il termometro delle infiltrazioni sarà il numero degli impianti effettivamente funzionanti, l'origine sta nel meccanismo iniziale che fa lanciare a Beppe Lumia, senatore PD della Commissione Antimafia, un preciso allarme. Nell'energia, ha detto nell'audizione del 27 gennaio 2010, Cosa Nostra ha replicato il modello usato nel metano Provenzano-Ciancimino, ossia cosche più amministrazione. Sul fotovoltaico la situazione ancora non è del tutto compromessa come quella dell'eolico. Sul fotovoltaico già ci sono interessi mafiosi, già la mafia ha puntato anche su questo grande affare, ma ancora si può intervenire, ancora si può evitare quello che è già avvenuto, ripeto, nel campo dell'eolico. E quindi dobbiamo fare in modo che ci sia un ciclo del fotovoltaico trasparente. Innanzitutto bisogna evitare che chi prende le autorizzazioni dopo poco la rivende facendo delle plusvalenze da capogiro. E poi bisogna stare molto attenti al ciclo del controllo del territorio, che è quello dell'installazione e poi quello delle estorsioni, e quindi è necessario si controllino le burocrazie. Lei in commissione ha parlato anche di una cifra, dei 7 miliardi investiti solo in Sicilia. 7 miliardi in Sicilia, 5 in Puglia, quasi la stessa cifra in Campania, 3 miliardi in Calabria, e quindi c'è di fronte a noi un panorama che ci fa capire che parliamo di grandi, grandi, grandi risorse economiche e finanziarie che rischiano di andare a finire nelle tasche delle organizzazioni mafiose. C'è qualche zona in particolare che è sotto l'attenzione dei magistrati per questo tipo di possibili infiltrazioni? Innanzitutto in Sicilia bisogna prestare molta attenzione in quello che già di dannoso è avvenuto nella provincia di Trapani, che ricordo a tutti è il luogo dove ancora c'è latitante il capo attuale di Cosa Nostra, che è Matteo Messina Denaro. E lì si è intervenuto soprattutto sull'eolico, e poi a provincia di Agrigento segnala a tutti quella di Enna, cui bisogna aprirsi bene gli occhi, ma vale un po' per tutte le province. Il business del sole, come del vento, piace alle mafie, che fanno sentire la loro voce anche con una bomba se qualcuno lo ostacola, come è successo in Calabria a Girifalco, quando un professore ha denunciato che le mappe per un impianto erano false. Ma all'ombra dei pannelli si nascondono anche piccoli e grandi raggiri, una ventina quelli su cui sta tuttora lavorando la Guardia di Finanza per una truffa da 50 milioni di euro. Il colonnello Fabrizio Martinelli del Comando Generale. Alcune sono già state chiuse, tra cui ad esempio un'indagine sviluppata in Sicilia e più precisamente nel Siracusano, che ha avuto ad oggetto 3 impianti fotovoltaici ammessi a finanziamenti pubblici per oltre 10 milioni di euro, ma mai entrati in funzione, e quindi qui si è proceduto anche al recupero dei fondi erogati dalla regione Sicilia con il sequestro anche di 1700 pannelli solari. Lo schema classico di queste truffe è fondato sulla presentazione di false fatture a dimostrazione di interventi che sono ammessi a finanziamento e che in realtà non sono mai stati fatti, oppure a sovravalutare gli interventi che effettivamente sono fatti. Nel caso di questa inchiesta siciliana, perché non era mai entrato in funzione questo impianto fotovoltaico? Mancavano ancora dei requisiti tecnici, nonostante sì, fosse dato per terminato l'intervento. In queste vostre inchieste sul fotovoltaico, quali sono i reati che sono stati maggiormente contestati? Truffa ai danni dello Stato. Il reato che poi spesso si accompagna a questo è quello della falsa fatturazione e tutto un complesso di evasioni fiscali unitamente a associazione a delinquere. Queste indagini si concentrano soprattutto in alcune regioni piuttosto che in altre? Centro-Sud, Puglia, ma c'è anche la Sicilia, la Calabria e anche il Lazio. Talune volte le indagini riguardano anche degli aspetti diversi, come ad esempio le irregolarità nelle autorizzazioni che riguardano la proprietà dei terreni, l'effettiva destinazione dei terreni. Ci sono, ecco, le truffe per ottenere finanziamenti pubblici, ma anche truffe come una in Sardegna, se non erro. È una truffa a danni dei privati, questa volta che intendevano possono investire nel fotovoltaico. Il servizio cui lei fa cenno ha visto coinvolte 107 imprese che stavano per investire in nuovi impianti fotovoltaici e che erano state indotte da una società creata ad hoc al versamento di acconti anche fino a 30.000 euro per la costruzione di questi impianti, che non solo non sono stati mai realizzati, ma gli organizzatori di questa truffa si sono messi in tasca 1,5 milioni di euro e non hanno costruito nulla. Almeno il nostro intervento ha consentito di trarre in arresto 4 dei responsabili. Al Ministero dell'Interno il 7 febbraio è lo stesso gestore dei servizi energetici a chiedere aiuto nei controlli, vista la significatività degli interessi economici, scrive, e visto il comportamento in alcuni casi ostile con rischi per l'incolumità del personale, denuncia dei titolari degli impianti. Su 50.000 nuovi impianti con incentivi superiori ai 2 miliardi di euro annui, stima il gestore, finora le verifiche hanno scoperto il 17% di irregolarità, ma quanti impianti effettivamente si riescono a controllare? E se a Termini Imerese c'era chi si era messo a contrabbandare pannelli col Marocco e ad Assisi i francescani hanno tuonato contro il grande parco fotovoltaico che deturpa il creato, ammoniscono, in Puglia i pannelli solari fanno abbronzare gran parte dei secolari ulivi, una decina le inchieste aperte solo nel Salento. Cataldo Motta è il procuratore di Lecce. L'aspetto che ci ha interessato fin dall'inizio è stato quello dell'eventuale coinvolgimento di ambienti di criminalità organizzata. Per altro verso, il rischio di inquinamento ambientale, perché in realtà ancora oggi non c'è una ben definita regolamentazione delle installazioni. Quando non ci sono regole può accadere di tutto. Io vedo che ormai ampie zone, ampie porzioni del territorio salentino sono ricoperte da pannelli solari senza nessun criterio di ordine. La regolamentazione tarda a venire e quella che attualmente c'è è tutto insufficiente, non è chiara. Abbiamo svolto 2 indagini che si sono già concluse con un nulla di fatto. Quindi al momento non vi risultano infiltrazioni della criminalità organizzata in questi investimenti? Quelle uniche 2 indagini che abbiamo fatto, che erano mirate essenzialmente ad accertare quel profilo, hanno dato esito negativo. Mentre mi sembra che ci siano possibili profili di reati contro la pubblica amministrazione. Quello è un aspetto sotteso a tutte queste vicende che non può essere escluso. Secondo lei il boom degli incentivi e anche un po' le vicende legislative che ci sono state con una legge poi regionale anche messa in discussione dalla Consulta, tutto questo diciamo ha portato del disordine che è sempre la condizione ideale per la commissione di reati? Ben questo che ci preoccupa, questo proliferare sostanzialmente senza regole ben definite, ben delineate, ben precise per l'installazione, una sorta di deregulation nella quale tutto può accadere. Molti ritengono che bisognerà andare a vedere da qui a qualche anno quanti poi di questi impianti e dei pannelli che sono stati messi continueranno effettivamente a lavorare, certamente. E quello sarà la spia anche della bontà o meno degli investimenti a monte. Tra quanto tempo secondo lei sarà necessario questa sorta di censimento? Per le informazioni che abbiamo, la qualità di questi pannelli non consente uno sfruttamento che superi 20 anni. Forse è stato sopravvalutato l'intervento in questo ambito. Cioè il rischio, lei dice, è che tra qui al massimo 20 anni ci ritroviamo con regioni piene di pannelli che ormai non servono più. Proprio così. Che hanno avuto come unico risultato quello di danneggiare il territorio sotto il profilo del danno ambientale. Forse bisognerebbe, come dire, soffermarsi su tecnologie più avanzate. E forse nel frattempo, almeno da un punto di vista locale, mi sembra di capire, serve una regolamentazione. Questo è indispensabile. La situazione regionale, abbiamo parlato tempo fa proprio con esponenti della regione, si prevede un intervento anche normativo regolamentare, perché così non si può andare avanti. Approfondimenti ancora sul fotovoltaico anche sull'audioblog di Storiacce, dove ritrovate anche la nostra inchiesta sull'eolico. Con tutti voi l'appuntamento è per sabato prossimo in settimana con le inchieste di Storiacce, ma molto prima ci ritroviamo anche sul blog e sul mio profilo Facebook. Ciao a tutti da Raffaella Calandra.